140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Palazzo dei Congressi, Taormina. Al Taormina Film Fest una cantante appassionata di cinema. È l'estate del nuovo singolo Idealista per Noemi. Intanto so che siamo nel posto giusto, perché siamo a un festival di cinema e tu hai studiato cinema. Ragazzi, ho studiato, interrogatemi. Sì, ma io ho sempre amato il cinema, poi studiarlo era una conseguenza, ma penso che insomma quando uno è affascinato è normale, spero. Ma che rapporto hai adesso col cinema? Ma mi dispiace perché posso andare un po' di meno a vederlo, perché sono un po' in giro, però diciamo che si è spostato più sulle serie televisive il mio amore per il momento, perché le vedo, mi sembrano più curate ultimamente a livello di... mi piacciono di più, mi coinvolgono con più forza. Allora sono curiosa del consiglio di Noemi, quali serie televisive vanno viste? Vabbè ragazzi, è inutile che qua, sono anche qui in questo periodo qua, termina insomma Gomorra, tanta roba. E beh, poi mi sto guardando, a parte vabbè, Outcast è bellissimo, poi mi piace molto bel Trono di Spade, e poi niente, ormai i grandi classici, Breaking Bad è bellissima, e poi anche Better Call Saul è molto figo, American Horror Story però più bella la prima serie e la terza, e non mi è piaciuta quella con Lady Gaga. Esagerata. Già stavo dicendo fai la nostra Lady Gaga. No, ma no. Che no, io a parte che non so recitare, come direbbero in Boris, sono una cagna maledetta. E, no, io a me piace, mi piace a guardarlo, mi piace, insomma, sono un'estimatrice. Ci siamo incontrate per il tuo album, ci siamo incontrate per Sanremo, il viaggio delle tue canzoni continua, adesso un nuovo singolo, peraltro con una delle firme più preziose che c'erano nell'album. Ma io sono contenta perché, come dice, me l'ha detto Loredana per te, mi fa, oh, ma tu ti stai a fare un bel repertorio. E in realtà sono contenta che pure lei me l'abbia detto, perché mi dà più coraggio. Ivano Fossati ha scritto io questo pezzo Idealista, e prendendo spunto da una chiacchierata a pranzo che noi abbiamo fatto, perché io l'ho voluto incontrare per raccontargli il disco che volevo fare, un disco profondamente analogico, scritto con dei testi forti, delle melodie che fossero a servizio del testo, una musica che fosse a servizio del testo, e lui ha tirato fuori questo ritratto di ragazza trentenne che è un po' outsider, che però ama divertirsi, farsi i cavoli suoi, che in cui io mi trovo molto molto dentro. Di sete non morire, che l'acqua da venire, se non è adesso e stasera e domani qualcosa da cambiare qui. Il cuore è rivelato, l'istinto non ha mai sbagliato. Sono felice, rido, corro, scappo, e mi sembra di aver volato. No, no, io dico di no. Io no, rispondo di no. A questo mondo se la grande interesse per le donne e tu grande affetto da parte della comunità LGBT alla quale sei molto accanto e che vive un periodo anche difficile dopo quello che è successo questa settimana. Ma guarda, io dico che è un periodo difficile che viviamo tutti, sai, è stato un caso, beh non un caso, no, che fosse un bar gay, perché poi è uscito fuori che questo tizio fosse anche omofobo, questo ragazzo, un periodo duro che stiamo vivendo tutti, insomma, perché prima di essere gay, prima del loro orientamento sessuale, insomma, c'è il fatto che loro sono delle persone, c'erano degli insegnanti, c'era molta gente dentro, insomma, che vivevano delle vite al di là della loro sessualità, poi, e che a parte appartengono a tutti noi. La vera tragedia è il fatto che, ecco, questi atti così alimentano l'odio e invece di calmare certi moti e certi entusiasmi un po' fuori luogo, invece siano utilizzati per tirare su anche delle polemiche che possono fare poco di buono. Io spero che invece quello che è successo sia una chiave giusta anche per l'America di trovare, insomma, una vera e propria regolarizzazione, per esempio, perché il problema credo di queste situazioni sia l'eccessiva facilità con cui si acquistano le armi in alcuni paesi, e credo che il vero problema sia lì. Insomma, non capisco perché una persona pacifica che va in un locale disarmato deve convivere lo stesso spazio con una persona che invece in 3 secondi può spararli. Insomma, al di là di tutto, mi sembra questa il vero dramma che si vive, oltre poi la sofferenza che viene perpetrata, insomma. Ma per concludere con un piccolo sorriso, noi, icone gay, siamo le donne più pazzesche, dai. Guarda, l'icone gay, ma guarda, le icone gay mi piacciono perché, sai, è come, perché sono trasversali, uniscono generi. Però mi piace perché io ho sempre odiato fare figli e figliastri e non mi piacciono i gruppi, io sono abbastanza, mi piace, forse delle volte può essere anche mal percepita questa cosa, perché mi piace starmene per i cavoli miei, non mi piacciono quelli che fanno i gruppetti, però devo dire che il gruppo LGBT è molto divertente perché è un gruppo trasversale che non si chiude nei confronti degli altri, ma anzi apre le strade a persone che di solito venivano tagliate fuori e, insomma, apre. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Noemi. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.